Radio 24 Reportage. Torna la pioggia, ma i problemi rimangono. Di Enrico Pagliarini. All'inizio di marzo avevo percorso un tratto del fiume Po e incontrato chi si occupa del grande fiume per capire come e se stiamo affrontando la siccità. Ogni anno la situazione è sempre più grave e il problema riguarda tutta Italia, non solo la pianura padana, che comunque da sola vale un terzo della produzione agricola nazionale e oltre il 50% degli allevamenti di bestiame. Uno dei problemi più evidenti sono gli inverni con poca neve, ma la quantità d'acqua che cade in un anno in Italia non è molto cambiata nelle ultime stagioni. Ciò che si è modificato in modo sensibile è la distribuzione e l'intensità delle piogge. Forti rovesci, tanta acqua che cade in poco tempo, che oltre a creare problemi al territorio, ingrossa i fiumi e se ne va velocemente verso il mare. E poi lunghi periodi in cui non cade nemmeno una goccia, come ricorda Stefano Mariani, ricercatore dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell'Ambiente. Nell'analisi fatta in questi ultimi anni abbiamo osservato come proprio nell'ultimo ventennio si siano registrati, diciamo, gli estremi di questa situazione, ovvero abbiamo visto che sul totale delle precipitazioni cadute su un anno sull'intero territorio nazionale abbiamo osservato sia negli ultimi 20 anni sia un aumento di quei fenomeni estremi, appunto, di riduzione della precipitazione che hanno portato a eventi di siccità, sia all'estremo opposto, ovvero quei massimi di precipitazione mai registrati dagli anni 60 ad oggi, e quindi che portano a un altro estremo del ciclo idrologico, che sono le alluvioni. Quindi si sono sicuramente accentuate le situazioni, quelle in cui c'è scarsità di precipitazione, e l'opposto, quelle in cui ci sono un surplus di precipitazione. Secondo l'annuario dei dati ambientali 2019 che l'ISPRA ha presentato pochi giorni fa, emerge che la temperatura cresce in Italia più che in altre parti del mondo. Nel 2018 è stata registrata un'anomalia media pari a più 1,71 gradi rispetto alla media climatologica del 1961-1990, quindi un arco temporale di 30 anni, superiore a quella globale che invece è di più 0,98 gradi. Quindi noi abbiamo registrato un aumento di 1,71 rispetto ad una media di 0,98. È una cosa abbastanza preoccupante. Però da questo punto di vista la temperatura e l'aumento delle temperature hanno un impatto significativo anche sulla siccità? Allora, l'aumento di temperatura ha un impatto sulla siccità, ma è, diciamo, in qualche modo marginale rispetto alla riduzione di precipitazione. Può aggravare la situazione ed è tra quelle variabili meteorologiche che vengono comunque considerate quando si parla di siccità, anche se non è la principale per la quale, diciamo, il fenomeno viene caratterizzato, ecco. Adesso sentiamo qual è la situazione in pianura padana. Abbiamo contattato 3 giorni fa Meuccio Berselli, segretario generale dell'autorità di bacino del Po. Allora, dall'ultimo osservatorio che abbiamo riunito all'inizio di maggio, devo dire che la situazione è molto migliorata grazie alle ultime piogge. Infatti oggi, mentre stiamo parlando, stiamo registrando un aumento del livello della portata del fiume che si attesta, diciamo, circa alla media del periodo dal 1924 al 2000. Quindi siamo in una situazione di non criticità. Aggiungo a questo che il livello dei laghi, soprattutto il lago di Garda e il lago Maggiore, che sono i nostri due grandi giacimenti di acqua, si attestano a livelli, il lago di Garda al 90% di riempimento e il lago Maggiore, rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende, che è un indicatore molto importante, circa a 1,30. Quindi sono due, diciamo, bacini, risorse molto importanti, perché in caso di bisogno possiamo derivare acqua, prelevarla per gli scopi irrigui di cui ci sarà particolare bisogno nei giorni e nelle settimane prossime. Quindi la situazione non è critica, ma significa questo che l'acqua è sufficiente per le esigenze estive? No, non è sufficiente. Infatti, proprio per questo noi riuniamo l'osservatorio mensilmente in questo periodo e ogni 15 giorni facciamo, diciamo, una verifica di tutti i dati. Noi sappiamo che il cambiamento climatico a cui siamo sottoposti ha sempre delle temperature molto più alte rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti e quindi ci sarà una evapotraspirazione maggiore e quindi ci sarà un bisogno di risorse, un bisogno di acqua maggiore rispetto agli altri anni. La quantità di acqua che è caduta in questi giorni e la portata del fiume in questo momento ci consente di andare avanti per 15 giorni da oggi mentre stiamo parlando senza problemi, però poi bisognerà vedere le prossime previsioni, cosa ci diranno e a che punto siamo della coltivazione, della situazione irrigua e del fabbisogno di acqua, perché non è detto che riusciamo ad arrivare sino in fondo. In mancanza di una strategia a livello nazionale che punti alla costruzione di grandi invasi per trattenere l'acqua, per poterla usare quando serve, ci si organizza per cercare di coordinare quello che abbiamo. Gli osservatori permanenti per gli utilizzi idrici si stanno dimostrando efficaci perché mettono in equilibrio interessi contrastanti sull'uso delle acque. Ad esempio, fra chi deve produrre energia elettrica e vorrebbe trattenere l'acqua in bacino, la usa di giorno e la ripompa a monte di notte, e chi invece a valle quell'acqua la usa per irrigare. Ma ovviamente questo non basta. Francesco Vincenzi è il presidente dell'AMBI, l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica che gestiscono le acque irrigue. I nostri dati ci rappresentano una situazione preoccupante in quanto appunto le mancate piovosità, specialmente nei mesi invernali, stanno dimostrando quanto è critica la situazione nel paese. In particolare nel centro-sud abbiamo una situazione a macchia di leopardo, ma che rappresenta circa il 50% di disponibilità idrica in meno rispetto all'anno passato. Stessa cosa un pochino meno grave, anche grazie alle piogge delle ultime ore e comunque delle piogge dell'arco alpino degli ultimi 15 giorni, è la situazione che abbiamo nel bacino padano. Questo però non è sufficiente per dire che il pericolo della siccità è un pericolo che l'abbiamo scampato, ma assolutamente è un pericolo importante, in particolare per l'agricoltura, per l'ambiente in cui viviamo, perché l'acqua dell'agricoltura è un'acqua che crea anche un grande potenziale ambientale del nostro territorio, in particolare in un tempo dove stiamo vedendo che la fruibilità del territorio, dove abbiamo i nostri corsi d'acqua con le piste ciclabili, sicuramente con le piste ciclabili non solo, diventa un elemento distintivo appunto del nostro lavoro, vediamo che potrebbe creare dei problemi importantissimi non solo appunto all'agricoltura ma al territorio e all'ambiente stesso. Voi ritenete che nelle prossime settimane o questa estate ci possano essere delle zone del paese dove addirittura mancherà l'acqua per irrigare? Noi ci auspichiamo di no, grazie appunto a questi accordi preventivi che vengono fatti all'interno dell'utero del bacino. La preoccupazione è che anche la mancanza del manto nevoso, che ha rimpinguato solo in parte quelli che sono i grandi bacini alpini, quindi i laghi, che sono al sud per quanto riguarda invece il sud tutte le nostre infrastrutture, in particolare gli invasi, ci mettono nelle condizioni di dire che forse non mancherà, ma sicuramente avremo delle forti preoccupazioni, perché crediamo che ci sia dobbiamo razionalizzare gli usi, quindi ci sarà qualcuno che magari può rimanere senza per un periodo troppo lungo e creare lo stesso purtroppo una serie di danni alle colture, perché quando manca l'acqua nel periodo strategico, in particolare nel momento che il frutto e che la cultura ha bisogno di notevoli quantità di acqua, se manca in quel periodo le problematiche potrebbero venire. È chiaro che come mondo dei consorzi di bonifica cerchiamo di evitare questo, incrementando quello che è il consiglio irriguo in tutte le situazioni del paese, andando a indicare agli agricoltori qual è la giusta quantità di acqua in modo che non ne venga utilizzata una goccia in più di quella che deve essere utilizzata, per poter garantire a tutta la filiera la giusta quantità di acqua e la giusta quindi produzione, evitando dei forti danni. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.